Quarta ed ultima parte di Rock Legends, continuiamo ad ascoltare i brani del disco degli Amantide Madchen. Come si chiamava questa canzone? Questa era Join Me in the Desert. Quali ora gli obiettivi della band oltre alla promozione del vostro disco? Sicuramente suonare live il più possibile. Adesso abbiamo appena cambiato batterista, quindi stiamo rimettendo in sesto tutta la scaletta live e al più presto torneremo insomma sui palchi. Poi questa settimana è uscito il video di un pezzo, quello che appunto magari andiamo ad ascoltare tra poco, di Zombie, e quindi useremo anche un po' questo canale, il primo video ufficiale che facciamo, vediamo un po' come andrà, quindi promozione su tutti i fronti insomma. Siamo al quinto brano, cosa fate sentire? E questa è Zombie. Il tempo vola, noi siamo quasi alla fine di puntata. Vi ricordo i contatti per le segnalazioni. Scrivete all'indirizzo email jeanluc76m@yahoo.it. Ricordo www.radioRCS.it per info su Radio RCS, Rock Legends e streaming per ascoltare la nostra radio attraverso Media Player. Grazie agli Amantide per la partecipazione. A questo punto la parola a voi per i contatti web, per informazioni sul vostro disco ed alcuni live in programmazione, se ne avete ovviamente. Noi ringraziamo te Gianluca, ringraziamo tutti gli ascoltatori. E i nostri contatti sono facebook.com/amantide, riverbnation.com/amantide, MySpace, YouTube, siamo un po' ovunque insomma sul web. E lì potete trovare i link per acquistare il nostro album su iTunes, su CD Baby e insomma per scriverci quello che volete, insomma. Siamo qui per rispondervi. Altro non... Per il live, come dicevo prima, adesso siamo un attimo fermi, ma al più presto ripartiremo, insomma vi faremo sapere sulle nostre pagine. Brano di chiusura. Vi lasciamo con la ballad dell'album e questa è Summer Breeze. Jean-Luc e gli Amantide vi salutano, noi ci risentiamo la prossima settimana quando avremo ospiti Teodasia, formazione veneziano-veronese che presenterà il disco Upwards. Ciao! Why should I?